cinese, tanta gente interessata e differente, ma comunque intelligente, che si aspetta una canzone da cantare allegramente, certamente divertente. La cantiamo in mesa estra, estra, sesta, questa gente che ci sente. La cantiamo inutilmente, sesta, sesta, questa gente non la canta gentilmente. La canzone va così, arandarante, arandaranni. La canzone là dov'è, arandaranni, la santuriame. La canzone va così, arandarante, arandaranni, per la santuri. La canzone là dov'è, arandaranni, la santuriame. Allora, mi raccomando, le parole sono importantissime. Naran naranni, naran naranni. Non sbagliamo, eh? Partiamo. Naran naranni, naran naranni, naran naranni. Naran naranni, naran naranni, naran naranni. Naran naranni, naran naranni, naran naranni. Ringraziamo questa gente tanta volta che ci sente e speriamo innanzitutto. Salutiamo tutto quanto e cantiamo allegramente sta canzone divertente. Naranaranni, naranaranni, naranaranni. Naranaranni, naranaranni, naranaranni. Naranaranni, naranaranni, naranaranni. Naranaranni, naranaranni, naranaranni. Naranaranni, naranaranni, naranaranni. Naranaranni, naranaranni, naranaranni. Naranaranni, naranaranni, naranaranni.